Sempre più spesso mangiamo a tutte le ore e ovunque ci troviamo. La mia prima visita a Parigi risale al 64. Ricordo ancora adesso l'emozione e il senso di improvvisa libertà che ho provato nel comprarmi un panino con la salsiccia calda e nel mangiarmelo, un po' come tutti, per la strada. Se oggi siamo tutti incerti, tuttavia, sulla natura di ciò che mangiamo, perché è semplice, perché il capitalismo più demente ha vinto e stravinto con la serafica complicità di chi diceva di volerlo combattere, vabbè, in compenso, se oggi siamo tutti incerti su ciò che mangiamo, sappiamo con certezza che l'apparato confezionatorio di ciò che mangiamo tende a moltiplicarsi, ingigantendosi fino a straboccare da ogni cestino o cestone ed espandendosi per la via di città come marea di pattume al passaggio della luna supermercanziale al culmine del meridiano. Per ogni grammo di cibo che ingeriamo ci lasciamo alle spalle un chilo di carte, plastiche, allumini, altro non meglio identificabile, che chiamato a rispondere positivamente al nostro bisogno di sicurezza e di igiene, impesta irreversibilmente ogni metro cubo in cui tentiamo l'ardua nostra sopravvivenza. Escono quattro giovani da una di queste tante boutique del pane, dove del pane c'è soltanto un vago ricordo abilmente suggerito da una sagace retorica. Escono e si ingozzano di pizze, focacce farcite e quant'altro buttato giù dall'immancabile lattina. Ovvio che tutti i loro alimenti siano iper protetti da gran quantità di carte più o meno oleose. Mangiano, ridacchiano, scherzano, dicono com'è buona, guardano un po' di qua, un po' di là, fino al momento in cui tutti hanno ingurgitato tutto quello che c'è da ingurgitare. Prendo le misure, constato che il cestino più vicino è a una decina di metri, ma loro quattro, come un sol uomo, non vi si dirigono. Vanno dritti invece dalla parte opposta, con le loro cartacce in mano, appallottolando le loro lattine, dalla parte opposta dove li aspetta l'automobile d'ordinanza, di quelle da 40 milioni in su, partorita dall'esigenza di quieto vivere del genitore di uno di loro. Aprono le portiere ed entrano. La cosa mi incuriosisce e mi preoccupa. Anni di consapevolezza in ordine all'evoluzione dei rapporti sociali e della capacità di viverli criticamente stanno per andare a ramengo. Mettono in moto e l'auto annaspa i primi approcci in retroguardia per uscire dal parcheggio. È a questo punto che, come se una voce interiore si fosse finalmente decisa a parlare loro, si abbassano elettricamente, si intende, quattro finestrini e tutto il loro pattume vola giù, adattandosi all'asfalto come pop art in una galleria d'arte newyorkese. Sgommando vanno verso il loro destino. Dall'auto si gode di una immunità che senza la protezione della carcassa ce la sogniamo. Per esiti così meravigliosamente coordinati dell'agire umano non occorrono accordi né complicate programmazioni. Nessuno ha iniziato un discorso del tipo non buttiamo adesso il pattume che abbiamo prodotto, no, aspettiamo dopo quando siamo protetti dall'abitacolo dell'automobile. No, non c'è calcolo né timore inconscio in soluzioni così socialmente condivise. C'è la coazione di un intero progetto ideologico. C'è una stramaledetta cultura. Ci sono anni e anni di tenace educazione alla deresponsabilizzazione. E c'è l'esecuzione di una semplicissima operazione mentale, in grazia della quale la carta buttata lì sullo stesso asfalto che sto calpestando è ancora congiunta, contestuale a chi la butta, mentre mentre la carta buttata dai finestrini di un'automobile è irrimediabilmente separata, ben distinta da chi l'ha buttata, come il cane abbandonato sull'autostrada, a sufficiente distanza di sicurezza perché non torni più. Ieri sera, in televisione, ho rivisto Music Box, che Costa Gavras ha diretto nel 1989. Nutro grande stima per Costa Gavras, è uno dei pochi che, da Zeta l'orgia del potere alla piccola apocalisse, è uno dei pochi che ha fatto cinema con straordinario rigore etico, sempre sorretto da una ferma volontà di critica, di trasformazione del mondo a favore degli oppressi. Deve essere per questo che agli esteti del cinema non piace. Music Box è la storia di una figlia, ormai mamma, ormai avvocato, ormai benestante, ormai americana, è una figlia che scopre il passato nazista del proprio padre, un ungherese aguzzino che si era messo al servizio delle SS. Potrebbe essere la storia di tutti noi che usciamo dal buio artificiale degli anni di guerra. Anche lì, l'argomento difensivo fa perno sulla separatezza. Siamo americani, che c'entriamo noi con i nazisti, che c'entriamo con gli ungheresi, si tratta di fatti passati che non possono, non debbono inficiare il nostro attuale benessere. La mente collettiva pianta i paletti del limite oltre il quale non vale più alcuna assunzione di responsabilità. Alla richiesta disperata di un momento di umana lealtà non si risponde o ci si ripara dietro all'estrema negazione. Quale cartaccia? Quali lattine? Quali pizze? Quale olocausto?